La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla mostra Testamenti di grandi italiani, apertasi lo scorso 16 febbraio presso l'archivio storico Capitolino a Roma. L'esposizione, realizzata nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, è curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato e raccoglie i testamenti di 25 illustri italiani. Ospite ai nostri microfoni Paolo Setti, vicepresidente del Consiglio Nazionale del Notariato. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Il mio cadavere sarà cremato con legna di caprera nel sito da me indicato, con asta di ferro e un pizzico di cenere. Sarà chiuso in urna di granito e collocata nella tomba delle mie bambine, sotto l'agaccio ivi esistente. La mia salma vestirà camicia rossa. La testa, nel feretro o lettino di ferro, appoggiato al muro verso tramontana, con volto scoperto, i piedi all'asta. I piedi del feretro o lettino, assicurati con catenetta di ferro, siccome la testa. Io spero di vedere il compimento dell'unificazione italiana, ma se non avessi tanta fortuna, raccomando ai miei concittadini di considerare i sedicenti puri repubblicani, con il loro esclusivismo, poco migliori dei moderati e dei preti, e come quelli nocivi all'Italia. Il 30 luglio del 1861 Giuseppe Garibaldi detta queste disposizioni testamentarie, che vengono depositate dal notaio Gaetano Cattaneo il 25 ottobre del 1882, quattro mesi dopo la morte del generale, che avvenne a Caprera il 2 giugno di quello stesso anno. È un documento di notevole interesse storico che ora viene esposto insieme ai testamenti di altri grandi italiani dell'Ottocento e del Novecento nella mostra Testamenti di grandi italiani, apertasi lo scorso 16 febbraio presso l'archivio storico Capitolino. L'esposizione, realizzata nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità Nazionale, è curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato ed è organizzata in collaborazione con l'Unità Tecnica di Missione 150 della Presidenza del Consiglio e con l'Assessorato alle Politiche Culturali di Roma Capitale. Nella mostra sono raccolti i testamenti di 25 illustri italiani, da Giovanni Verga a Luigi Pirandello, da Garibaldi a Cavour, da Papa Giovanni XXIII ad Alcide De Gasperi. Questo è un passaggio del testamento di Luigi Pirandello. Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici, preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzi, né partecipazioni. Morto, non mi si vesta. Mi si avvolga nudo in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso. Carro d'infima classe, quello dei poveri, nudo. E nessuno mi accompagni, né parenti né amici. Il carro, il cocchiere e basta. Bruciatemi. E il mio corpo, appena arso, sia lasciato disperdere, perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare, sia l'urna cineraria portata in Sicilia, e murata in qualche rozza pietra della campagna di Girgenti, dove nacqui. Luigi Pirandello. I testamenti attraversano la storia del Novecento, offrono spunti di analisi e riflessioni su uomini e donne che hanno fatto la storia del paese, dai grandi scrittori ai presidenti della Repubblica. È il caso di Enrico De Nicola, primo presidente provvisorio della Repubblica dopo l'entrata in vigore della Costituzione il 1 gennaio del 48. Subito dopo le elezioni del 18 aprile del 48, De Nicola cede il posto a Luigi Einaudi. La premessa del testamento di De Nicola ne descrive in modo mirabile il carattere e la cifra morale. Tutto il mio patrimonio è frutto esclusivo del mio lungo, assiduo, onesto lavoro professionale di 50 anni. La mia vita modesta e parsimoniosa mi ha consentito di accantonare risparmi sugli introiti annuali e di accumulare anche fino a pochi anni or sono tutte le rendite. Avrei posseduto un patrimonio notevole se non mi fossi imposto volontariamente una norma che ho osservato in modo rigorosissimo, come tutti sanno, dal giorno in cui entrai nella vita politica, di non accettare il patrocinio di cause, le quali avessero relazione, sia pure indiretta, con lo Stato, e di cause le quali durante le due guerre mondiali avessero comunque relazione con la situazione bellica, politica o militare. Ed ecco infine un passaggio del testamento di una grande scrittrice italiana del Novecento, Grazia Deledda, morta a Roma il 15 agosto del 1936. Oggi, 26 aprile 1935, pienamente sana di mente e di corpo, dispongo delle mie ultime volontà. Lascio ai miei due figli, Sardus e Francesco Madesani, quanto mi appartiene, perché se lo dividano di comune accordo, con l'obbligo, però, di versare entro 3 mesi dopo la mia morte, detraendola dalla comune eredità, la somma di lire italiane 50.000 alla mia nipote Mirella Morelli, come ricordo per la buona compagnia che essa mi fece durante la sua fanciullezza e perché essa abbia sempre a praticare gli insegnamenti che maternamente le ho dato. Grazie a Deledda Madesani. Abbiamo in linea Paolo Setti, vicepresidente del Consiglio Nazionale del Notariato, che ha curato con particolare attenzione questa iniziativa. Buonasera e grazie, notaio, per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a lei. Allora, ci illustri meglio nel dettaglio, come dire, l'obiettivo e la ratio di questa vostra interessante iniziativa. Partirei prima dal fatto casuale, diciamo, che ci ha portato a questa iniziativa, perché noi lo scorso anno, nelle celebrazioni del nostro congresso di Torino, avevamo già, diciamo, edito un piccolo manualetto sul notaio e risorgimento, avendo scoperto che la bellezza di 8 garibaldini, diciamo, che facevano parte della spedizione di Garibaldi, erano o sarebbero poi divenuti notai. E quindi già questo fatto ci aveva un filo incuriositi. Poi, da un'idea del dottor Levi, che è il responsabile della comunicazione del Consiglio Nazionale, abbiamo deciso di occuparci di testamenti in occasione dei 150 anni, testamento quindi, diciamo, materiale noto al notaio, ma non sotto il profilo professionale per andare a esaminarne le clausole piuttosto che altro, ma con un approccio diverso, in qualche modo mi piace dire amichevole, in modo che la memoria da collettiva possa trasformarsi in memoria individuale, quasi che conoscessimo un pochino meglio questi personaggi. Quindi lo scopo non è propriamente storico nel vero senso della parola, ma è di rendere attuali, direi, anche degli insegnamenti, perché da questi testamenti derivano anche grandi insegnamenti. Certo, è una testimonianza collettiva corale anche interessante dal punto di vista letterario, come abbiamo sentito. Certamente. Ascoltando le testimonianze, appunto, i testamenti di grandi scrittori italiani del Novecento, ma anche la professione del notaio in qualche modo ha accompagnato questi 150 anni. Come è cambiata nel corso, appunto, di questo lungo tragitto unitario, dai primi testamenti a quelli più recenti? Ci sono dei cambiamenti anche, come dire, nella tecnica di messa a punto oppure no? Beh, diciamo che ci sono dei cambiamenti quanto agli istituti giuridici, alcuni non esistono più rispetto ad allora. Le faccio un esempio: nel 1800 normalmente le donne non avevano patrimonio, ricevevano una dote all'atto del matrimonio, non aveva patrimonio, ricevevano una dote all'atto del matrimonio e la dote andava al marito. Tanto che Garibaldi, che era assolutamente un uomo di grande civiltà e che pensava a una società molto più avanzata di quella in cui viveva, lasciò espressamente una delle clausole in cui disse che la porzione dell'isola di Caprera destinata a sua figlia non sarebbe andata al marito della figlia, in qualche modo rivendicando l'autonomia anche economica di sua figlia e quindi delle donne in genere. Quindi si notano dei cambiamenti che sono più che legati alla tecnica redazionale, ai costumi che sono cambiati. Certo, e poi sempre a proposito dei testamenti, vedendo la mostra e scorrendo il catalogo, in realtà convivono due tipi di testamenti in molti casi. C'è un testamento vero e proprio secondo le clausole tradizionali, cioè certo, si lascia quel che si ha ai propri eredi. E poi invece ci sono anche dei testamenti di tipo politico, questa è la parte forse più interessante. Sì, di tipo politico e spirituale, che sono forse quelli, infatti, come ha detto lei, più interessanti, perché lì ci sono gli insegnamenti, diciamo così. Possiamo prendere appunto la parte finale di De Nicola, in qualche modo, che chiede di non essere commemorato. Possiamo prendere il testamento di Montini, che è un atto d'amore verso Roma e verso l'Italia. Possiamo prendere quello di Ambrosoli, che secondo me è il più straordinario dal punto di vista della sensazione individuale, diciamo, del pericolo incombente e del coraggio nell'affrontarlo. Quando scrive alla moglie, sapendo di essere minacciato da Sindona e quindi dalla mafia incaricata di Sindona, che poi effettivamente lo ucciderà, scrive alla moglie: qualunque cosa succeda, tu ti prenderai cura dei figli, perché sai come farlo, e allevali secondo quei principi che noi abbiamo seguito. È un insegnamento morale straordinario, e non è solo un fatto di commozione, è proprio un problema di etica, di insegnamento dell'etica, di insegnare che il proprio dovere va fatto, va compiuto, insomma. Un eroe involontario, perché in fin dei conti faceva il suo lavoro, non aveva fatto una scelta di campo, diciamo. Bene, molte grazie per tutti questi suoi chiarimenti, complimenti per questa vostra bella mostra, che consigliamo senz'altro ai nostri ascoltatori di vedere. La ringrazio molto, buona serata a lei.